La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, eccoci qui all'ora settimanale di cinema qui su Radio 24, fine settimana particolarmente ricco di uscite, anzi fatemi fare una premessa: se in un weekend escono 11 nuovi film è difficile davvero orientarsi, è anche difficile costruire una trasmissione di un'ora, ce ne sono di molti attesi ma deludenti come vedremo Sex and the City 2, di interessanti poco sponsorizzati, di piccoli scarsamente distribuiti, c'è davvero un po' di tutto. Noi dobbiamo fare delle scelte che purtroppo non sono solo quelle di spingere i finché meritano, ma anche quelle di parlare magari male, se è il caso, dei film che la gente comunque andrà a vedere, anche per metterla un po' sull'avviso. Quindi prima di passare ai contenuti della puntata, voglio citarvi due film italiani come Sono Viva e Le Quattro Volte. Il primo è un thriller con venature soprannaturali, con due grandi attori come Marcello Mazzarella e Giovanna Mezzogiorno, una risposta a chi dice che in Italia non si fanno film di genere. Si fanno, ma poi per misteriosi motivi ci mettono 2 anni per uscire. Un film così in Spagna sarebbe fuori in 100 sale nei multiplex. In Italia ha trovato spazio in 8 cinema, ma nelle grandi città c'è e quindi scovatelo. Le Quattro Volte ha destato grande interesse soprattutto per lo stile della regia di Michelangelo Frammartino alla Quinzaine a Cannes, immagini poetiche, riflessioni sulla vita e sull'uomo, un cinema sicuramente non omologato. 20 sale per vederlo, 4 delle quali in Calabria dove il film è ambientato. Sono Viva e Le Quattro Volte, se potete andateli a vedere. E ora, titoli di testa. Delude il sequel di Sex and the City, che rimette in scena le ormai quarantenni newyorkesi. Impalpabile, stanco e terribilmente lungo. Scenari apocalittici per raccontare a un figlio un mondo che non c'è più. Viggo Mortensen, protagonista di The Road, con Charlize Theron e Robert Duvall. Buon compleanno, Dirty Harry. Clint Eastwood compie 80 anni, celebrato in Italia dalla riedizione in Blu-ray di oltre 30 fra i suoi film. A Torino, Cinema Ambiente, il festival che indaga i rapporti fra le tematiche ambientali e la settima arte. E anche Beppe Grillo avrà il suo film. E allora questi i titoli di testa, i contenuti della Rosa Purpurea di questo ultimo fine settimana di maggio. Noi cominciamo dal film che probabilmente era più atteso fra quelli che arrivano in questo weekend nelle sale, ma che anche già ha destato un po' di storture di naso. Ne abbiamo viste parecchie, probabilmente tutte meritate. Stiamo parlando di Sex and the City 2, il sequel del film tratto dalla serie. Le nostre amiche, vostre amiche, non lo so, amiche mie sicuramente no, vostre forse, sono cresciute, non dico che sono diventate vecchie carampane, ma insomma si sono allineate, diciamo, a un'età media un po' più alta. E cosa combinano? Ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Sono passati 2 anni e in 2 anni possono accadere cose straordinarie. E proprio quando credete di aver visto tutto, sorpresa! Carrie e le sue amiche sono tornate. Le ritroviamo nel Connecticut, al matrimonio, officiato da Liza Minnelli, del migliore amico gay della signorina Breccio, ora signora Preston, dopo le nozze, alla fine della prima pellicola, con il grande amore, Mr. Big. Tutto perfetto? Non proprio. Lily! Mi stanno facendo impazzire! Ho convinto il mio corpo a credere di essere più giovane. Come farai a ingoiarle tutte? Ci conosciamo? Per quanto mi riguarda, Big e io eravamo in una zona fra il sesso sfrenato e un bambino. Non so cos'è peggio. Samantha, il bambino alla fine si stancherà. Le ex ragazze, ovviamente con Carrie ci sono Miranda, Charlotte e Samantha, tentano di fuggire da bambini, mariti pantofolai e menopausa. Ci serve un po' di glamour. Una settimana ad Abu Dhabi, tutto spesato per tutte e quattro. Fuori città? Esattamente. Lo sheik offre albergo e soggiorno, ma non è facile fuggire se anche in capo al mondo si trova un proprio ex. Anzi, il più importante degli ex fidanzati, Aiden. Il più bel miraggio che io abbia mai avuto. Cosa? Parlo come se non ti conoscessi. Vieni qui. Facile capire la scelta di un secondo film dopo il successo planetario della serie TV e gli oltre 400 milioni di dollari incassati dalla prima pellicola con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Christine Davis e Kim Cattrall. Il primo obiettivo è ovviamente fare cassa, al botteghino e in boutique, visti i cambi d'abito, decine. Sembra di trovarsi a una sfilata piuttosto che a vedere un film, solo che un défilé di solito dura 15 minuti, non 145. Qui la noia la fa da padrona, con doppi sensi volgari che non hanno ormai più nulla dell'acutezza della serie TV e stereotipi da turisti fai da te. Il film vorrebbe essere un inno alle donne, con la moda a unire occidentali e arabe, ma alla fine è più un prontuario di product placement. Né i tormenti amorosi di Carrie, né la sfrontatezza sessuale di Samantha, che perde preservativi per le strade del souk, sono più quelli di una volta, ed è difficile non condividere la definizione usata dal Times: menopausa nel deserto. E allora, in attesa di capire se si trasformerà in Flop in the City, abbiamo dovuto fermarla, Chiara, perché era davvero un treno in corsa. Insomma, avete capito, il film non è particolarmente riuscito, però abbiamo sentito le voci degli spettatori, li definirei fans, perché come sentite invece sono di tutt'altro segno. Ascoltiamo. Ho visto il primo film, però questo mi è piaciuto molto di più. Mi è piaciuto il coraggio delle donne. Le donne sono le più coraggiose, secondo me. Sì, molto. È divertente. Forse la storia, tutta la storia, è stato molto molto carino. Tutto, soprattutto i vestiti. A me piace la classe che hanno queste donne. L'ho sempre seguito, è sempre bello. È carino solo per passare il tempo, vederlo forse a casa. Molto. I vestiti, le attrici e i posti. Va bene per vivere un momento di frivolità. Ed eccoci di nuovo qua, la Rosa Purpurea. Siamo a una nuova proposta, un'altra proposta di questo fine settimana. È un film, come abbiamo detto nei nostri titoli di testa, che ci porta in uno scenario apocalittico. Non è certo la prima volta, di un futuro prossimo venturo, in una terra che ormai non è più assolutamente ospitale, nella quale un padre cerca di raccontare a un figlio che cosa è stato il mondo. Sembra un po' un film che vuol parlare, facendo finta di parlare a un pubblico di domani, parlare in realtà ovviamente al pubblico di oggi. Si intitola The Road, è interpretato da Viggo Mortensen, che tra l'altro, aperta parentesi e notizia, sarà Sigmund Freud nel nuovo film di David Cronenberg, The Talking Cure, di cui sono iniziate da poco le riprese. Questa è una notizia proprio delle ultime ore. Insomma, Viggo Mortensen, prima di vederlo fra le mani sapienti di David Cronenberg, vediamolo in questo The Road. Ce lo racconta Barbara Righini. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Che succede? Non lo so. Secondo te quante persone sono ancora vive? Al mondo? Pochissime. Futuro imprecisato e una catastrofe appena consumatasi di cui non viene svelata l'origine. Queste le premesse di The Road, dal bestseller di Cormac McCarthy, lo stesso autore de Non è un paese per vecchi, da cui i fratelli Coen hanno tratto l'omonimo film 2 anni fa. E in un certo senso la totale mancanza di morale e di umanità di Non è un paese per vecchi è la premessa per il mondo descritto in The Road. I colori sono scomparsi, la natura è morta e gli uomini rimasti sono solo un branco di lupi spietati che lottano per la sopravvivenza. Un uomo e un bambino ridotti a fantasmi di loro stessi camminano nel freddo e nell'oscurità verso sud, verso il mare, convinti che l'unica speranza di vita sia in quella direzione. Non dobbiamo fermarci, continuare a sud, verso la costa. Le strade sono popolate da bande in cerca di cibo. Il ragazzino ha fame, perché non venite con me al camion? Guardalo ancora e ti faccio un buco in testa. In condizioni estreme, quando gli uomini sono tornati al grado zero della civiltà, quando le regole non valgono più e conta solo la legge del più forte, è in quel momento che ogni uomo è chiamato a scegliere fra il bene e il male. In tanta disperazione l'unica motivazione che spinge il protagonista ad andare avanti, a continuare a vivere, è il desiderio di proteggere suo figlio. Per non perdere la ragione, l'uomo torna con la mente al ricordo della vita felice che aveva con la moglie. Prima della catastrofe, la donna si è arresa da tempo. Prima o poi ci raggiungeranno. E che farai? Ammazzerò chiunque provi a toccarti, e questo è il mio compito. Scappa, scappa! Dolente dominante, incredibilmente trasformato dal punto di vista fisico, sofferente, Viggo Mortensen nel ruolo dell'uomo riesce a non cedere mai al melodrammatico, mentre l'australiano John Hillcoat firma una regia controllata e misurata. Hillcoat sceglie di concentrarsi sul rapporto padre-figlio, lasciando sullo sfondo quel che resta dell'America. L'amore dell'uomo per il bambino è l'unica speranza rimasta per l'umanità. Ad aggiungere valore al film una fotografia cupa e livida, un road movie disperato nel mezzo di uno scenario apocalittico. E allora abbiamo salvato invece The Road, evidentemente il film con Viggo Mortensen, pur non avendo elementi di novità straordinari rispetto al racconto di una terra che c'era in un momento in cui non c'è più, eccetera, però insomma ha la sua, il suo perché, come si suol dire. Andiamo a giocare perché apriamo la prima finestra sulla DVD Game di questa settimana, che anche questa settimana è un Blu-ray game, quindi ci siamo convertiti quasi totalmente all'alta definizione. Ascoltiamo la prima clip di questo film misterioso, fino a quando non lo indovinate. Ascoltate bene e se avete già capito di che film si tratta, scriveteci fra poco l'indirizzo. Ero come un bambino, o un hobbit al sicuro nella contea. O un ragazzo di campagna biondo su un pianeta lontano, deserto. Ignaro di aver già fatto i primi passi su una strada che lo condurrà inarrestabilmente nel cuore di un conflitto tra le forze del bene e del male. E allora avete sentito, questa è la prima clip, più tardi un altro paio di possibilità, ma se sapete già di che film si tratta scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, c'è in palio il Blu-ray, un Blu-ray di questo film per chi ci ascolta il sabato e per chi ci ascolta la domenica. Allora questo è quel che riguarda la prima finestra del DVD Game, noi proseguiamo con un'altra proposta cinematografica che abbiamo estratto dalle 11 che affollano le sale italiane in questo weekend. Anzi, prima di farlo voglio dare un'occhiata al box office perché la settimana scorsa è stata una settimana semitragica per gli incassi. Sarà stata la finale di Champions League, sarà stato il bel tempo che si è palesato sull'Italia dopo due settimane di pioggia monsonica, ecco che è arrivato un po' un calo delle presenze, tanto che il Prince of Persia, di cui abbiamo parlato 7 giorni fa, è primo in classifica ma con un incasso nel weekend di 1.500.000 euro, che non è una gran cosa per un film di queste ambizioni commerciali. Crolla Robin Hood, che incassa ancora parecchio ma scende ed è a 7.700.000 di sfruttamento dall'inizio della sua uscita. Buon esordio per Final Destination in 3D, che nel primo weekend fa quasi 1.000.000 di euro. Horror e 3D sembrano funzionare insieme, ed è un ragionamento che si può fare anche per Ocean in 3D, che esce dalla top 10, però pensate, un documentario, sebbene spinto dalle voci di Aldo Giovanni e Giacomo, che ha fatto 2.500.000 di euro. In Italia penso si sia visto raramente negli ultimi tempi, e anche qui potrebbe essere stato proprio il 3D il volano, diciamo, di questi incassi. Esordio un po' lento per La nostra vita di Daniele Lucchetti, 600.000 euro nel primo weekend. Speriamo che poi il premio Elio Germano a Cannes possa aver implementato un po' la visione durante questa settimana. Chiusa la parentesi sugli incassi, è con noi Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buonasera Franco, come stai? Tutto bene, tu? Tutto a posto. E allora, visto, siamo tranquilli e sereni. Hai sentito la classifica, c'è questo 3D che ci piaccia o non ci piaccia, a me per esempio non è che mi faccia impazzire in sé, voglio dire, come mezzo, mi allontana un po' dalle storie, però questo è un parere personale, però rimane che sta diventando davvero un volano per determinati film, perché un Final Destination che parte con 1.000.000 di euro e un Oceani che esce dalla top 10 con 2.500.000, forse gli occhialini gli hanno portato un po' di fortuna. Cosa ne pensi? Non solo credo gli abbiano portato un po' di fortuna, ma credo che abbiano trovato poi pane per i loro denti, nel senso che andare nelle profondità degli oceani in 3D ha un senso, molto più che fare Coraline nella Porta Magica in 3D. E ancora più senso a Final Destination 3D, un arto che si stacca, i denti che ti arrivano addosso, una macchina che fa un incidente e arriva facendo l'effetto locomotiva, insomma, sullo spettatore, effettivamente danno un di più alla visione, e a chi piace questo tipo di intrattenimento, diciamo, più coinvolgente, effettivamente Final Destination devo dire che mi ha divertito molto di più in 3D in questa versione che nei precedenti, che trovavo invece abbastanza imbarazzanti sia come trama che come realizzazione cinematografica. Cioè, quando il 3D ha senso, secondo me moltiplica gli incassi. Boris, quello di cui stiamo per parlare invece è un film assolutamente in 2D, totalmente in 2D, italiano, Il Compleanno. Questo è il film che abbiamo scelto appunto fra gli 11 che arrivano nelle sale in questo weekend. Marco Filiberti in regia, Alessandro Gassman, Maria De Medeiros, Michela Cescon, per citare alcuni degli attori. Un film che ha un'iniziale venatura quasi da commedia balneare, poi però diventa un'altra cosa. Allora io comincerei ascoltando insieme un pezzo del trailer, sentiamo. Ci diamo la cultura? Stiamo trovando gli uomini giusti per farvi le corna. Matteo, ma le senti queste? Perché? Beh, siamo soltanto al primo giorno di vacanza. Vi odio. Brava Shari, diglielo. Chi l'ha trovata la casa? Ah, ve l'ho detto che la settimana prossima arriva David. Vedi che sotto sotto il papà viene fuori. E rimane con noi fino al suo compleanno. Chi è David, papà? L'ultima volta che l'ho visto era avuto 7-8 anni. Cazzo, allora è tanto, eh. E allora Boris, partiamo proprio da questa domanda fatta dalla bambina. Chi è David? È uno dei quattro, diciamo, protagonisti di questi commedia alla Padroni Griffi, se vogliamo. Ecco, questo a mio parere Filiberti ha cercato di portare avanti e lo ha fatto molto bene. Ricordiamo Filiberti, autore di Diario di un porno divo, film abbastanza sfortunato ma molto interessante, in cui lui metteva in campo tutti i suoi eccessi di regista e di attore. L'uomo e l'artista è molto narciso, oltre che ad essere molto bravo. Qui invece si controlla molto di più, sceglie questa struttura alla Padroni Griffi, cerca di raccontare quella che, tu come hai detto, sembra una commedia balneare, invece diventa un melodramma, ma molto più dramma che melo, che mette in campo l'identità sessuale e lo fa in maniera anche pesante, anche se poi non è una commedia omosessuale propriamente detta. C'è molto di più. Parlavi di 3D, è sicuramente un film in 2D, però diciamo che qui il 3D è tutto emotivo, cioè tutto è portato all'estremo in una situazione di calma solamente apparente. Mi piace molto questo Alessandro Gassman, che a mio parere ha trovato una maturazione dopo o poco prima di Caos Calmo, tardiva ma molto positiva. È bravissima come al solito Michela Cescone, e Maria De Medeiros, rispetto alle sue ultime recitazioni italiane, è meno estraniante. Devo dire che è una bella sorpresa, ecco. Marco Filiberti ci ha messo tanto per fare un altro film, è una bella sorpresa. A Venezia era piaciuto, purtroppo a quanto so a Roma è uscito solo al Film Studio, insomma la distribuzione è quella che è. In questo periodo ci saranno tanti bei film italiani, penso anche a Sono Viva 18 anni dopo. Tutti belli e tutti che non fanno forse la distribuzione di un piccolo film americano. Boris, guarda, abbiamo proprio aperto la trasmissione con una premessa legata proprio a questo aspetto. Abbiamo parlato di due film italiani, appunto, come Sono Viva le quattro volte. Uno esce in 8 sale, l'altro in 20 sale, 4 delle quali in Calabria, dove è ambientato. Sono due film che andrebbero visti, ma vale lo stesso anche per questo Il Compleanno. Due sale in Campania, una nel Lazio, due nelle Marche e una in Toscana. Chi è fortunato vada a vederli. Ma questa è proprio la tipologia di film che sono rimasti schiacciati dall'attuale stile di distribuzione, dove da una parte c'è il multiplex, dalla parte il deserto delle sale cittadine, dei centri città, che erano invece il punto di forza di film come questo. Sì, assolutamente d'accordo. Fa male però, perché spesso e volentieri vediamo, adesso farò una piccola, come dire, polemica che ha ripreso anche chi è più importante di me, come Giovanna Mezzogiorno, cioè ci sono delle parrocchie di registi italiani che vedono delle distribuzioni assolutamente sovrastimate rispetto al valore dei loro film. Fa male, insomma, vedere anche questi film che magari hanno avuto anche buone riuscite in test screening, buone riuscite ai festival, perdersi poi purtroppo in una distribuzione che è davvero tragica. Assolutamente, ma tra l'altro Boris, film, lo ha dimostrato Basilicata Coast to Coast, che se poi trovano il coraggio di qualche multiplex, perché Basilicata Coast to Coast è stato distribuito ed è diventato un film da sabato sera nel multiplex e ha fatto incassi assolutamente ragguardevoli, quindi forse manca anche un po' di coraggio di rischiare. Io penso a Sono Viva. Sono Viva, come ho detto in apertura di trasmissione, è un film che in mano alla Spagna degli horror e dei thriller uscirebbe il sabato sera in 100 sale. Massimo, sicuramente, hai fatto proprio l'esempio giusto, è 18 anni dopo che uscirà il 4 giugno un film, è un road movie che in America se lo sogna, no? Edoardo Leo ha fatto un piccolo gioiello ed è stato già fortunato che i De Angelis ci credano tanto da farlo uscire in 40 copie, ma davvero il compleanno, tornando al film di cui parlavamo, è un piccolo gioiello, un altro piccolo gioiello, uno dei migliori film italiani visti a Venezia, ed è incredibile che a Roma esca in un solo film, in un cinema d'esse il glorioso Film Studio, però insomma è una sconfitta a mio parere per il cinema italiano, nel senso che al di là dei finanziamenti forse è proprio la battaglia della distribuzione, della fruizione culturale che consolatevi a Roma, perché a Milano non esce proprio, quindi come dire, almeno lì si può andare a vedere. E allora sciolgo la società. Beh. No, ho detto la società, tu resti legato e i $3,000 vengono con me. Che ingrato, dopo tutte le volte che t'ho salvato la vita. Piccola merda. Per me sei soltanto merda di cane, hai capito? E tutto può succedere alla merda di cane. Può essere scrostata da terra con una scopa, seccarsi e disperdersi al vento, essere pestata e spiaccicata. Quindi sta bene attento dove il cane va a depositarti. Ha dei problemi con me, Mr. Kowalski? Meglio che stia zitto. No, dica. Allora dico che lei è un 27enne vergine imbottito di letture che gode a tenere le mani a vecchie signore superstiziose alle quali promette l'eternità. I tre Clint Eastwood che la nostra redazione ha scelto, il Clint Eastwood, diciamo così, del periodo Sergio Leone, quello durissimo del periodo Dirty Harry, Callaghan e poi quello più recente, ma altrettanto incattivito, almeno inizialmente, in quel capolavoro che è Gran Torino. È un compleanno speciale quello che cade il 31 maggio, ovvero lunedì, per Clint Eastwood da San Francisco, perché compie 80 anni. Allora gli auguri ovviamente arrivano da tutto il popolo del cinema, dalla Rosa Purpurea e da tutti quelli che amano i film e i film di Clint Eastwood in particolare. Nato, dicevamo, a San Francisco, in una famiglia protestante con origini irlandesi, scozzesi, olandesi e inglesi, figlio di un operaio di una fabbrica d'acciaio, primi ruoli in alcuni film di serie B come Tarantula o La vendetta del mostro, diretti da Jack Arnold, poi un primo incarico in una serie di successo come Rawhide nel 59, ma la svolta arrivò con Sergio Leone, la trilogia del dollaro, una carriera che andò avanti con capolavori nel western e poi nel 71 un'altra svolta, un altro anno fondamentale, da una parte l'esordio alla regia con lo splendido Play Misty for Me, in Italia intitolato Brivido nella notte, e il primo film della serie dell'ispettore Callaghan. Gli anni 80 vedevano un Clint Eastwood che sembrava ormai superato, ma gli anni 90 ce lo hanno riportato, prima con Gli Spietati, poi con I Ponti di Madison County e poi gli anni 2000 con due capolavori su tutti, Million Dollar Baby e Gran Torino. Questo veramente in sunto un po' il percorso artistico di Clint Eastwood, di cui vogliamo parlare con uno storico e un esperto di cinema americano come Leonardo Gandini, che è in collegamento con noi. Ciao Leonardo. Buonasera, buonasera. Allora Leonardo, abbiamo sentito nella clip un Leone, un Callaghan e un Kowalski. Che filo conduttore c'è fra i Clint Eastwood di periodi così diversi? Cosa c'è oggi del primo Clint Eastwood? Cosa è diventato Clint Eastwood dopo almeno 40 anni di carriera? Beh, direi che la sua è una parabola artistica e creativa assolutamente singolare, perché è un attore che si è affermato attraverso una serie di film che avevano come contenuto la violenza, nella quale lui interpretava personaggi che erano portatori di violenza estrema, cioè anche volendo fare una banale considerazione quantitativa, sia nei film di Leone che nei film in cui lui interpreta il poliziotto, il Dirty Harry, i morti sono tanti, le morti violente sono tanti. E poi nel momento in cui ha cominciato ad approdare alla regia, o comunque meglio nella stagione più matura della sua attività registica, i suoi film hanno continuato ad avere come denominatore comune la violenza, ma questa volta una riflessione sulla violenza, sulla mortalità, sulla morte, sull'inutilità della violenza. Da questo punto di vista direi che ad esempio Gli Spietati o Mystic River sono dei film dolenti, malinconici, ma assolutamente profondi nel modo in cui lui si pone di fronte alla violenza. Lo stesso Gran Torino, da questo punto di vista, che direi è quasi un film testamentario rispetto alla sua intera carriera. mi vengono in mente veramente pochi altri nomi di registi che hanno saputo così in maniera intensa e anche senza pudore, quindi con grande coraggio personale, rimettere in discussione la propria carriera di attore, così come ha fatto Eastwood nella parte finale della sua carriera di regista, soprattutto in Gran Torino, che è un film su di lui. Assolutamente, su di lui e su quello che è diventato, e quindi proprio la parabola che dicevamo, che Leo si specchia anche nella sua difficile attribuibilità politica, no? È difficile dare una matrice, perché lui parte totalmente repubblicano, ma è anche un gran libertario. Col passare degli anni, anziché irrigidirsi in posizioni conservatrici, si è forse spostato verso un territorio progressista, o comunque ha mostrato insofferenza per un'America meno pura di quella dei suoi ideali. Assolutamente, assolutamente, ma è un regista non ideologico, ma è un regista che ha una sua visione umanista della società. Non bisognerebbe mai dimenticarsi che Clint Eastwood ha pubblicamente in mille occasioni affermato che il suo film preferito non diretto da lui è un film di William Wellman che si chiama Alba Tragica, che è un western che racconta la storia di due personaggi innocenti che vengono impiccati sommariamente senza processo. E il tema della giustizia imperfetta, attraversa tutta la fase finale della sua carriera, cioè l'idea del sopruso, l'idea della vendetta come elemento arbitrario nelle relazioni fra gli uomini è qualcosa di cruciale nella sua carriera e devo dire non è neanche ideologicamente collocabile, qualcosa come lo trovo più un regista umanitario che un regista politico, anche se poi naturalmente si è sempre stati, spesso almeno, tentati di ricondurlo a delle posizioni politiche precise, che però lui ha giustamente sempre sfuggito. Certo, che è quasi non, se non negato, sicuramente messo in un angolo rispetto alla sua cinematografia. 30 secondi, Leonardo, per raccontarci invece del Clint Eastwood di oggi. Dopo Invictus è un regista di 80 anni che ha ancora due progetti già in opera. Sì, ma questo direi che è un tratto abbastanza comune nel cinema contemporaneo, no? De Oliveira, sono diversi, Godard stesso, di cui abbiamo visto il film a Cannes, sono diversi registi che ad un'età nella quale si andava in pensione continuano ad essere ricchi e fertili di grandi idee e che portano avanti la loro poetica, devo dire, con grande entusiasmo. Una volta la si considerava una fase di Viale del Tramonto dal punto di vista estetico. Invece oggi i registi vanno avanti e spesso e volentieri ritrovi i loro migliori film nella parte conclusiva della carriera piuttosto e nella terza età, quindi, piuttosto che nella parte iniziale. Ebbene, grazie allora a Leonardo Gandini per averci raccontato un po' e aiutato soprattutto a fare gli auguri per gli 80 anni di Clint Eastwood. Ciao Leonardo. Grazie, ciao, ciao. E allora, dopo Clint Eastwood, il gioco, perché si apre la seconda finestra sul DVD Game di questa settimana. Ascoltiamo la clip. Il laboratorio caprino una volta era chiamato laboratorio canino, ma molti soldati non se la sentivano di sparare alla zampa di un cane. L'esercito però se la sentiva di fare cose alle capre, perfino testare armi nucleari su di loro. E allora la rosa purpura a @radio24.it per provare a vincere questo Blu-ray, più tardi un'altra ultima possibilità di indovinare il film misterioso di oggi. Apriamo un'altra parentesi perché sta per aprirsi un festival che è diventato ormai una tradizione consolidata nel panorama festivaliero di Torino che è molto ricco peraltro e nazionale, è un festival che ha una sua unicità, quella di dedicarsi al cinema a tematiche ambientali. Cinema Ambiente a Torino è in collegamento con noi Gaetano Capizzi, che questo festival lo dirige. Ciao Gaetano. Ciao, buongiorno a tutti. Ben ritrovato qui alla Rosa Purpure a parlarci dell'edizione 2010 di Cinema Ambiente. Insomma, un'edizione, ho visto, con qualche premio Oscar, tanto per cominciare, con Beppe Grillo a far da guastatore con un suo film. Insomma, avete fatto le cose per bene. Raccontaci un po' in sintesi quali sono i contenuti privilegiati, diciamo, di questa edizione e anche date e luoghi del festival. Iniziamo il primo giugno, martedì, appunto con due premi Oscar 2010, il miglior documentario che è The Cove, un film sull'ambiente, appunto se imposto agli Oscar, è un cortometraggio d'animazione Logorama fatto da 2500 loghi, dei più famosi loghi del mondo, anche esso che premiato con l'Oscar. Questo per indicare insomma la vitalità del cinema a tematica ambientale ormai che si sta imponendo in tutti i principali festival, dalla Berlinale a Cannes, al Sundance soprattutto. Molti dei nostri film arrivano direttamente dal Sundance. Sono film che trattano il tema dell'ambiente, ma ben lontani, diciamo, dalla pesantezza del classico documentario ambientalista sulle lotte, cioè, sono molto gradevoli e il pubblico insomma affolla le nostre sale da lunedì. L'ingresso al festival è gratuito e appunto anche per questa valenza diciamo un po' didattica del nostro festival. Che tipo di penetrazione nella distribuzione ordinaria o in quella culturale riescono ad avere poi questi film? Cioè, nel vostro passato recente ci sono casi di film passati da Cinema Ambiente che poi la gente ha potuto vedere nelle sale nel circuito tradizionale? Ma sai, come tu insegni, insomma, in Italia la situazione distributiva è molto particolare, soprattutto per i documentari, insomma, non è molto florida. Però un film ambientale è una scomoda verità di Al Gore, quello interpretato da Al Gore, che è il secondo documentario per incassi nella storia del cinema, il primo La marcia dei pinguini. Per cui sono film che riescono ad avere poi una penetrazione soprattutto nel circuito DVD, perché come sappiamo nelle sale italiane i documentari non vengono praticamente proiettati. Ma ad esempio chi ha ucciso l'auto elettrica, Uchi l'Electric Car, è stato anche un altro film distribuito in DVD che ha incassato molto, ha venduto molto. Sono film che ormai seguono diciamo questo nuovo interesse che c'è verso i temi ambientali. Ormai la coscienza ambientale tra la gente inizia a essere massiccia, ecco, anche se poi magari le scelte politiche e le cose non sono conseguenti. Certo. E il cinema comunque segue, insomma, registra questo movimento. Allora, per saperne di più, Torino dal 1 giugno, Cinema Ambiente, che mostra cinema, documentario, cortometraggio, mediometraggio, lungometraggio, ma sempre di grande qualità proprio a tematiche ambientali. Grazie Gaetano Capizzi. Grazie a te, arrivederci. Quarta e conclusiva parte della Rosa Purpura, come sempre dedicata dal grande cinema da vedere o rivedere in casa. Però mi sono reso conto che prima nella chiacchierata con Leonardo Gandini per parlare degli 80 anni di Clint Eastwood, poi non vi abbiamo detto quali sono i due progetti che sono sul comodino di Clint. Anzi, uno non è più nel comodino perché dopo Invictus Clint Eastwood ha girato Hereafter, un thriller soprannaturale alla Sesto Senso. Pensate un po' in quale territorio si è spostato. E poi invece il prossimo progetto avrà i connotati di un personaggio controverso della storia americana, Edgar Hoover, il direttore dell'FBI fino al 72, che sarà impersonato da Leonardo DiCaprio. Quindi insomma questi gli Eastwood prossimi venturi. Arriviamo a parlare di cinema in televisione, nella programmazione in chiaro, con gli vari switchover del digitale terrestre, ormai è un po' tutto in chiaro se vogliamo, comunque sempre gratuito, del digitale terrestre e della TV, perché gli amici di Film TV, della redazione del settimanale Film TV, come sempre hanno selezionato un paio di proposte. Sentiamole da Claudio Bartolini. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi una doppia segnalazione da parte della redazione di Film TV, ovvero innanzitutto domenica, nella notte tra domenica e lunedì, andrà in onda su Rai 1 alle 3.40 di notte, quindi puntate il videoregistratore, Ultimo Minuto, un film di Pupi Avati sul mondo del calcio e sulle sue ipocrisie e corruzioni, mai come oggi estremamente attuale. La seconda segnalazione riguarda giovedì 3 giugno, su Rete 4 alle 16.25 verrà messo in onda il capolavoro di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, interpretato da un James Stewart e una Grace Kelly in stato di grazia, ed è un film capace di unire intere generazioni sotto il segno del giallo. Ecco, la trama è nota e riguarda un uomo con una gamba rotta che assiste per caso ad un omicidio dalla sua finestra, e da allora verrà trascinato in una serie di delitti e di intrighi a sfondo giallo che lo condurranno a un passo dalla pazzia. Ecco, quindi doppio appuntamento d'autore, prima col nostro cinema con Pupi Avati e poi con uno dei capolavori assoluti del Maestro del Brivido. Per questa settimana è tutto, grazie Franco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie allora Claudio Bartolini. Ricordo ancora La finestra sul cortile, la notte, anzi giovedì 3 giugno alle 16.25 su Rete 4, mentre La notte fra questa domenica e questo lunedì alle 3.40 su Rai 1, Ultimo minuto, un film davvero singolare e unico un po' nel suo genere, firmato Pupi Avati, sul mondo del calcio. Siamo alla terza e conclusiva traccia, il terzo frammento del film misterioso di questa settimana. Provate a indovinarlo. Avevo usato i miei poteri per il male, come se avessi gettato una maledizione su tutti noi. È come quella poesia in cui uno uccide un gabbiano e glielo fanno mettere intorno al collo. Ogni notte sognavo quella capra, la sua bocca che si apriva e chiudeva senza emettere un suono. Il silenzio delle innocenti. Qui c'è un elemento fondamentale per indovinare il titolo e io vi posso dire in più che è un film non facilissimo, ma con un attore fra i più popolari, fra i tre più popolari di questi anni. Quindi insomma cercate di concentrarvi, La rosa purpura a @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. 7 giorni fa invece vi avevamo fatto ascoltare questo frammento. Non posso abbandonare questi amici, hanno bisogno di me per essere esposti al museo. Senza di me tornerebbero in un cupo magazzino, forse per sempre. Udi, tu non sei un oggetto da collezionista, sei un balocco per bambini. Tu sei un giocattolo! E questa era proprio la clip che aveva un po' più svelato di cosa stavamo parlando. La grande saga di Toy Story arriva in Blu-ray con lo splendore che il Blu-ray riesce a dare chiaramente a questo tipo di film che sono già di genesi digitale, quindi girati in un'animazione digitale. Beh, insomma, è davvero uno spettacolo. Arrivano i primi 2 Toy Story in Blu-ray in attesa dell'arrivo dell'attesissimo terzo capitolo della saga. Hanno indovinato, perché la Disney era stata magnanima con noi, cioè ha messo a disposizione 4 copie di questo Blu-ray. Hanno indovinato, dicevo, Gianluca Testa di Lucca, Dario Paganini di Verona, Piero Dalbon di Cremona e Federico Rios di Agrate Brianza. Insomma, riceveranno a casa il Blu-ray di uno dei primi 2 capitoli della saga di Toy Story, che invece il nostro Claudio Poffi, che saluto, ci racconta così. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Da Disney Buena Vista, i primi 2 film di Toy Story in edizioni single e Blu-ray, con prendenti una copia digitale. Per il Blu-ray la qualità video è sicuramente da riferimento, ottimo anche l'audio in DTS. In entrambi i casi i Blu-ray offrono la visione identica praticamente a quella cinematografica, un blocco di extra molto interessante con approfondimenti sulla lavorazione, peraltro già pubblicati su DVD, ma c'è anche una sezione nuova con capitoli sulla produzione di entrambi i film, interviste, bozzetti e tutto ciò che è legato alle idee per la storia e lo sviluppo dei personaggi. Grazie, allora Claudio rimani con noi perché adesso dobbiamo parlare dei 2 film, delle 2 segnalazioni invece di questo fine settimana. Andiamo un po' in videoteca a cercare che cosa possiamo consigliarvi. Parliamo adesso di un film che potremmo definire di fantasocietà più che di fantascienza, uscito lo scorso anno con scarsa enfasi e scarsi spazi, senza troppa promozione, eppure avrebbe meritato sicuramente di più. Un classico esempio appunto di film stritolato un po' dalla distribuzione, dalla fretta. Stiamo parlando di un film intitolato Moon. Ascoltiamo. Da dove è arrivato? Perché somiglia a me? Sam, ti sei alzato? Sì, Gertie, mi sono alzato. Chi è quello? Chi è quello nella sala registrazioni? Sam Bell. Avanti, avanti, avanti. Tu sei Sam Bell. Che succede, Sam? Parlarne potrebbe esserti d'aiuto. Ma io non capisco che sta succedendo. Sto perdendo la testa. Da Sony Pictures Home Entertainment, la storia di Sam Bell, solitario operaio specializzato che sta terminando il ciclo di 3 anni di lavoro sulla Luna per estrarre l'elio 3, elemento soluzione alla crisi energetica mondiale. A pochi giorni dal rientro sulla Terra iniziano le allucinazioni, scarsa lucidità mentale che provocherà un incidente. Sam si risveglierà nell'infermeria della base con un ospite inatteso, un altro se stesso, realizzando di non essere altro che un clone con una data di scadenza prefissata dalla compagnia mineraria. Realizzato dal figlio di David Bowie, il regista ripropone i movimenti di macchina già visti in Alien di Ridley Scott, omaggio a 2001 di Kubrick e altre opere di genere, offrendo campo libero all'attore Sam Rockwell, che moltiplica la sua presenza in scena. La qualità audio-video del Blu-ray è assolutamente eccellente, comunque anche del DVD. Come extra segnalo 2 commenti su tutto il film assieme al regista e parte dei collaboratori, vari dietro le quinte e l'incontro post-proiezione con il pubblico al Sundance Film Festival. E invece l'avvento del Blu-ray, Claudio, ci permette di riscoprire un personaggio che è diventato un po' un modo di dire: resistenza, coraggio, una macchina da guerra per le situazioni più estreme. Stiamo parlando ovviamente di Rambo, che arriva in cofanetto Blu-ray, come dicevamo. Sentiamo. Lei è venuto qui per sapere come mai una delle sue macchine ha fatto cilecca. Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Un uomo che è il migliore, con i fucili, con i coltelli, a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, ad ignorare il freddo. Va a vivere di quello che trova, a mangiare cose che farebbero vomitare una capra. In Vietnam il suo compito era di sbarazzarsi del nemico, di uccidere. Punto e basta. Da Universal, all'interno di un unico cofanetto Blu-ray, trovano posto i primi tre capitoli delle avventure del pluridecorato reduce dal Vietnam interpretato da Sylvester Stallone, Rambo del 82, Rambo 2 con la missione in Vietnam dell'85 e Rambo 3 in Afghanistan dell'88. Sorprendente la qualità video già a partire dal primo film di Ted Kotcheff dell'82, con un risultato ancora meglio per i due successivi. La traccia audio in italiano è ad alta risoluzione, anche se monofonica, e comunque di accettabile resa, con qualche riserva in più per il primo film. Purtroppo non sono presenti extra. Grazie Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana. Come a tutti gli ascoltatori della Rosa Purpura, il nostro programma si chiude qui sabato alle 18, domenica in replica alle 15, poi in podcast dal lunedì in poi. Un saluto da Franco D'Assisi.